queste erano le Edith Nylon, gruppo francese del fine anni 70, inizio anni 80, e, diciamo precursore in qualche modo delle Rita Mitsuko. Il brano in questione era Femme sous cellophane, donne sotto cellofano. Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare sono le High Pants, That's the Way Boys Are. When I'm with my guy and he watches all the pretty girls go by, that's the way boys are. And I feel so hurt deep inside, I wish that I could die. That's the way boys are. Not a word do I say, I just look the other way. That's the way boys are. When he treats me mean and he acts as though he doesn't care, that's the way boys are. I don't tell him that he's being so unfair, that's the way boys are. 'Cause he loves me and I know it, but he's just afraid to show it. That's the way boys are. When he wants to be alone, I just let him be, 'cause I know that soon enough he will come back to me. That's the way boys are. When we have a fight and I think that I won't see him anymore, that's the way boys are. Then before I know it, there he is standing at my door. That's the way boys are. Well, I let him kiss me then, I know he wants me back again. That's the way boys are. That's the way boys are. Della scena newyorkese, formato da una fotografa, una visual artist e una filmmaker, e diciamo che è un gruppo che della no wave, che ha iniziato ad usare strumenti molto particolari come giocattoli, l'ukulele, i sintini Casio, e addirittura avevano un kit di batteria della Mickey Mouse di Topolino, insomma. E, diciamo i temi che hanno trattato maggiormente si occupavano appunto di patriarcato, e materialismo e capitalismo, rivisitati insomma in una chiave molto ironica e cinica. E, un gruppo che diciamo evocava altrettanto queste tematiche sono le Au Pairs, e il brano che ci andiamo a sentire si chiama It's Obvious. so nice. And again with you, it's equal nice. It's paradise. Nowadays you wash sheets in the box, scrub my back for me. Thank you. Queste erano le Raincoats, il brano si intitolava Dancing in My Head. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è della Delta 5, si chiama Mind Your Own Business. Ice cream. Siamo appena ascoltati Girls at Our Best, il brano era Politics. Girls at Our Best era una band di Leeds, Inghilterra, e il suo primo nome erano The Butterflies, e questo era il secondo singolo del loro disco autoprodotto sulla loro stessa etichetta Record Records. E il prossimo brano che ci andiamo a sentire sono le ESG, il brano è Dance to the Beat of Mood. We'll be right back. Diamo adesso qualche aggiornamento a cura di Femministenzia. Leggeremo una parte del comunicato stampa di SMIC, che sta per Società Medica per la Contraccezione, che riguarda appunto il cambiamento della dicitura che sta sul bugiardino, in questo caso del Levonor Gestrel. E quindi si legge: è un contraccettivo e non un abortivo. Quindi cade definitivamente l'appiglio che consentiva ai medici, obiettori di coscienza, di negare la somministrazione della contraccezione di emergenza. E a dare l'annuncio appunto la Società Medica Italiana per la Contraccezione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale da poco tempo fa, perché ancora il bugiardino di questa pillola contraccettiva riportava appunto che era un abortivo. Quindi è una dicitura risalente al 2000, che però è stata, diciamo, superata nei fatti, e che finalmente adesso è stato corretto anche il bugiardino che riporta la dicitura corretta. Quindi il Levonorgestrel è un contraccettivo e non un abortivo. Quindi nessun medico, in nessun pronto soccorso, in nessun ospedale può negare appunto di dare la prescrizione di questo farmaco, che appunto risulta come un contraccettivo. Allora, ricordiamo a tutte che il 13 febbraio c'è stata un'assemblea pubblica a Comunia, in via dello Scalo San Lorenzo, per la campagna Io Decido, verso l'8 marzo. E quindi si sono invitate, diciamo, tutte le realtà femministe di Roma, provincia, del Lazio, chiunque volesse partecipare, a costruire insieme la giornata dell'8 marzo. E nel comunicato che indice la campagna Io Decido, che riprende appunto quella spagnola, Io Decido, contro la legge del ministro Gallardón, che in pratica dà alle donne la possibilità di abortire legalmente in solo due casi: o in caso di violenza sessuale, oppure in caso di comprovato rischio per la salute psichica e fisica della donna. Al di fuori di questi casi, scegliere di abortire sarà un reato. come succede anche in Grecia, e in Italia diciamo siamo vicini a questa cosa, perché in realtà ci sono dei livelli di obiezione di coscienza che nella realtà poi nei fatti non garantiscono appunto l'applicazione della legge 194. Basti pensare che solo nel Lazio ci sono il 90% di medici obiettori, quindi ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza è praticamente quasi impossibile. Quindi allora la campagna Io Decido, vogliamo ripartire dalla libertà di scelta, quindi dalla capacità di decidere sui nostri corpi, dall'autodeterminazione, vogliamo ripartire dalle parole d'ordine appunto della Spagna, Io Decido, per dare vita a una campagna anche a livello europeo che rivendichi la possibilità concreta di un aborto libero, gratuito e garantito. Una campagna che garantisca la possibilità dell'aborto farmacologico, la completa accessibilità alla pillola del giorno dopo e la sicurezza che ci siano luoghi come i consultori che realmente ne assicurino la prescrizione. Vogliamo sostenere la laicità dello Stato, vogliamo che consultori e ospedali vengano rifinanziati. Vogliamo autodeterminarci come donne, lesbiche, trans e queer. Per questo estendiamo l'appello a tutte e tutti per dare corpo alla campagna Io Decido, per immaginare insieme un 8 marzo fuori dai soliti riti, invadendo con manifestazioni, cortei e azioni tutte le città. Quindi invitiamo tutti a partecipare e a costruire insieme la manifestazione dell'8 marzo. E diamo degli appuntamenti, ricordiamo che questo fine settimana ci saranno delle giornate in solidarietà ai quattro compagni NOTAV arrestati lo scorso 9 dicembre, Claudio, Mattia, Niccolò e Chiara. In particolare Chiara si trova nelle celle di alta sorveglianza del carcere romano di Rebibbia, e questa domenica 23 febbraio alle ore 15 al predone in fondo a via Bartolo Longo, basta carcere, basta isolamento, ci sarà un saluto a Chiara e a tutte le detenute del carcere di Rebibbia, terrorista e chi devasta e militarizza i territori. E poi un altro appuntamento, martedì 25 febbraio dalle Cagne Sciolte, via Ostiense 137, all'interno della rassegna Cine Pioniere, ci sarà il quinto appuntamento del ciclo, le prime parole di Greta Garbo, Anna Cristi, il primo film sonoro interpretato dalla Divina. E il 28 febbraio, che sarà un venerdì, invitiamo tutte e tutti al Freak Show al Forte Prenestino per un DJ set di Iva, che adesso continuerà la sua playlist, e quindi vi lasciamo alla prossima traccia. Yeah. ci siamo appena ascoltati Essential Logic, che sarebbe la band creata da Lala Logic, la sassofonista degli X-Ray Specs. E stiamo sempre parlando dei gruppi femminili del post-punk, della no wave, che vanno dal periodo dal 78 all'82. E il prossimo, anzi diciamo dall'Inghilterra, ci andiamo a spostare in Francia a sentire la prossima artista, che è un'artista poliedrica e diciamo compositrice, musicista, pittrice e quant'altro. Parliamo di Lizzie Mercier de Clou e il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Paiola. It's here, right here. Ha! Pick it up. Pick it up. Ha! dei Clou. Il brano che abbiamo ascoltato si intitolava Paiola, è tratto dall'album Mambo Nassau, che Lizzy Mercedes Clou ha registrato nelle Bahamas, quindi con tantissime influenze africane e comunque esotiche. E ora ci andiamo ad ascoltare un altro gruppo sempre molto influenzato comunque dalle sonorità africane, e loro sono le Slits. Il brano si intitola Animal Spacer. Thank you. E queste erano le Slits, il brano era Animal Special. Il prossimo gruppo che ci andiamo ad ascoltare è un gruppo jugoslavo, cioè dell'ex Jugoslavia, si chiamano Shizike. Kažete im tri, sa žizikama zajedno te zapavite svi. Abbiamo ascoltato Le Scisiche, gruppo jugoslavo dell'inizio anni Ottanta. Abbiamo sentito un po' di gruppi femminili, quindi di quel periodo dal 78 all'82, internazionali. E per chiudere andiamo in Giappone, ci sentiamo le Frank Chickens. Il brano che andiamo a sentire si intitola We Are Ninja, Not Geisha. Thank you. Femministenzia vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì. Ricordiamo i contatti, il contatto Facebook è Femministenzia Castelli Romani, la nostra mail è collettivo donnecastelli@inventati.org e per seguire tutte le trasmissioni della radio, radiodefault.it. Vi lasciamo con la nostra sigla di Marta, ringraziamo Iva per questa serata e questa playlist. Ciao Iva. Grazie, ciao, ciao. E ciao a tutte e tutti. Ogni corpo una tacca e via a misurare. È primavera. Ma insomma ragazzette, dammi se un po' da fascia, avemo culo e tette e testa per pensare. Però volevo aspetta, vedi la pensa, testa per pensare, scusate, che puro di difetti sono da valorizzare, altro che quelle della pubblicità. Ci piace fare l'amore, è puro dei magnà, altro che